tutto giorno. Le notizie in 60 minuti. Di Simone Spezia. Unioni Civili si apre tra molte polemiche la discussione sulla fiducia al governo, salvo sorprese, oggi il via libera definitivo alla legge. Trovato mezzo chilo di tritolo in Puglia, secondo i magistrati, alle parole del collaboratore di giustizia, era destinato al procuratore capo di Napoli. Autobomba in Iraq, a Baghdad, sarebbero almeno 64 i morti nel distretto sciita di Sadr City, la rivendicazione dell'ISIS. Alla Camera arriva la proposta di legge per escludere dall'asse ereditario gli uomini condannati per l'omicidio della moglie. E in provincia di Udine un uomo ha picchiato la fidanzata e l'ha minacciata col taglierino. È stato arrestato sabato, ma è già libero. Un nuovo caso a Trento. Lei ha 24 anni, non ha fatto neanche un esame all'università, ma il giudice pignora un terzo della pensione del padre per mantenerla. A Modena il volley vince il suo 23esimo scudetto, ma è costretta a lanciare una raccolta fondi tra i suoi sostenitori per garantirsi la sopravvivenza. Una buona giornata da Simone Spezia, bentornati Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. I nostri contatti sono i soliti, il 349-238-6666 per i vostri sms e per i vostri messaggi su WhatsApp. Unitevi se volete al nostro canale Telegram, telegram.me/effettogiorno. In apertura dunque parliamo di unioni civili e lo facciamo col nostro Vincenzo Miglietta. Vincenzo. Sì, buongiorno. Siamo allora, Simone, al passaggio finale del provvedimento con un confronto parlamentare che è stato decisamente intenso, come avviene sempre d'altronde quando all'esame vi sono testi che incidono così direttamente sui diritti civili e più in generale riguardano temi etici. Confronto che si attende intenso anche nella prossima ora durante le dichiarazioni di voto, quindi alle 14:10 l'inizio della cosiddetta chiama nominale. Nel pomeriggio poi il via libera all'intero provvedimento. Il governo ha deciso di blindare con la fiducia il voto di oggi, nonostante la maggioranza alla Camera abbia ampi margini di manovra, ma Palazzo Chigi vuole evitare sorprese a pochi metri dal traguardo. Le opposizioni hanno gridato e gridano allo scandalo per la fiducia. Di poco fa la replica del Presidente del Consiglio Renzi, che spiega non erano possibili ulteriori ritardi dopo anni di tentativi falliti. Quindi la sua personale dedica ad un'amica in prima fila per le unioni civili in queste ore decisive, scrive Renzi: tengo stretto nel mio cuore il pensiero e il ricordo di Alessia e questo mi basta, perché le leggi sono fatte per le persone, non per le ideologie. Ad attaccare il Premier, lo dicevamo, è tutto il fronte del no al provvedimento, a partire dal Family Day, che torna a ricordare a Renzi che la sua forzatura sulle unioni civili la sconterà con il no nel referendum di ottobre sulle riforme. È tutto, linea allo studio. E grazie a Vincenzo Miglietta per questo aggiornamento. Ancora la giustizia intanto al centro del dibattito. Accogliendo l'invito ad abbassare i toni arrivato dal presidente Mattarella, toghe e governo provano a stemperare le tensioni sulla giustizia. Dopo aver visto il presidente dell'ANM Davigo, stamattina il ministro della giustizia Orlando ha incontrato anche il vicepresidente del CSM Legnini. Un faccia a faccia il cui obiettivo era anche quello di chiudere il caso Morosini, il consigliere del CSM che in un'intervista poi smentita aveva annunciato un suo possibile impegno nella campagna referendaria con il comitato per il no. Da Legnini è arrivato un impegno perché ci sia vigilanza sul fatto che i pareri del CSM siano strettamente legati alla funzione istituzionale, ha spiegato il guardasigilli. Non c'è nessun bavaglio per le toghe, ha comunque rassicurato dal canto suo Legnini, che ha anche respinto ipotesi di pressioni esterne sulle nomine del CSM. Le nomine vanno avanti, ne abbiamo fatto fino ad oggi 315, in assoluta libertà, autonomia, serenità. Respingo con fermezza qualunque ipotesi di pressioni esterne. Il ministro della giustizia non mi ha mai parlato di una nomina. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E a proposito di magistrati, ce n'è uno, il procuratore di Napoli, per il quale si stava progettando un omicidio. La camorra voleva ucciderlo con mezzo chilo di tritolo a Gioia del Colle, dove il procuratore di Napoli Giovanni Colangelo risiede. Il clan che stava pianificando l'attentato aveva studiato nel dettaglio gli spostamenti tra Puglia e Campania del magistrato nato in provincia di Bari e dal 2012 a capo della procura di Napoli. A rivelarlo, un collaboratore di giustizia vicino agli ambienti della Sacra Corona Unita, ma originario della Campania. Mentre si trovava in carcere nel 2015, l'uomo sarebbe venuto in contatto con alcuni affiliati ai clan dell'area nord di Napoli, Napoli e avrebbe appreso dell'agguato ai danni del procuratore. Il tritolo, pronto per essere consegnato, pochi giorni fa era stato trovato dalla polizia insieme a una pistola calibro 7,65 a Gioia del Colle. Era nascosto tra i cespugli di fronte alla residenza di un noto trafficante d'armi, Amilcare Monti Condesnit, finito in carcere per la vicenda con altri 4 complici. Grazie alle indagini sul tentato omicidio di un pregiudicato a Bari, avvenuto il 14 febbraio scorso, e alle intercettazioni ambientali, i magistrati della DDA avevano scoperto le trattative per l'acquisto e la consegna dell'esplosivo. Fabrizia Ralla, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Bari. Ancora la cronaca con una notizia di questa mattina che arriva da Cagliari, dove c'è stato un duplice omicidio. A quanto sembra non sarebbe stata utilizzata alcuna arma da fuoco per l'omicidio appunto di Giuseppe Diana, 67 anni, della moglie Luciana Corgiolu, di 62, trovati i cadaveri questa mattina nella loro casa di Settimo San Pietro. Trapelano al momento pochissimi particolari sul delitto. Gli investigatori sono all'interno della casa per i primi rilievi della scientifica. Ci spostiamo all'estero, adesso in Iraq, per un nuovo attentato. È stata un'operazione di martirio contro un raduno di milizie sciite a Sadr City. Ha battuto subito un post diffuso su Telegram da Al-Amaq, agenzia di informazione legata ai terroristi dell'ISIS, che ha rivendicato così la paternità dell'esplosione in un mercato di Baghdad, che ha ucciso oggi almeno 64 persone e ne ha ferite altre decine. Secondo le testimonianze riferite dalla BBC, la bomba era nascosta in un furgone carico di frutta posteggiato nel mercato, da cui però il terrorista sarebbe sceso prima della deflagrazione. Dopo un periodo di frequenti e sanguinosi attacchi, dal febbraio scorso è in costruzione un muro di protezione attorno a Baghdad. Si è cominciato da ovest per isolare la città dalla strada per Fallujah, che da tempo è sotto controllo jihadista. Nel frattempo, in attesa dei bastioni cittadini, molti quartieri hanno allestito dei muri fai da te. Laura Bettini, Radio 24 e Sole 24 Ore. Gli atteggiamenti autoritari del presidente turco Erdogan rischiano di far saltare l'accordo con l'Europa sui migranti. L'accordo, che in senso stretto accordo non è perché si tratta di una dichiarazione, scricchiola. Ieri la decisione di rinviare la riunione tra Unione Europea e Turchia, prevista per venerdì, sulla liberalizzazione dei visti per Ankara. Da Bruxelles fanno sapere che la disdetta è stata concordata con i turchi, ma le dimissioni di Davutoglu, artefice dell'accordo con gli europei e accompagnato alla porta da Erdogan, non devono essere state prese con leggerezza dalla Commissione. Bruxelles ha ribadito che in merito all'accordo sui migranti con Ankara non c'è un piano B, solo un piano A di cui proseguiamo l'attuazione. Il piano però prevede che la Turchia risponda a tutte e 72 le richieste dell'Europa. Tra le poche risposte che ancora mancano, una è fondamentale per i paesi europei: la modifica della legge sul terrorismo, ora utilizzata anche per colpire la minoranza curda e gli altri oppositori. Ecco allora affacciarsi l'ipotesi di un piano B, dirottare verso la Grecia i 6 miliardi messi in conto per la Turchia. Secondo gli ultimi dati, nel paese ellenico ci sono poco più di 54.000 rifugiati. Atene avrebbe i soldi necessari per i centri di accoglienza e per le operazioni di registrazione. Di certo un piano rischioso per le possibili contromosse turche. Valeria De Rosa, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Arriva una proposta di legge per escludere dall'eredità chi ha ucciso la moglie. Alessandra Schepisi, buongiorno. Sì, buongiorno Simone. Chi uccide la moglie non può pretendere di ereditarne i beni, un principio di buon senso, ma purtroppo ancora non scontato, che la proposta di legge presentata poco fa alla Camera punta a rendere di automatica applicazione, un provvedimento dunque per tutelare le cosiddette vittime collaterali dei delitti di famiglia, cioè in primo luogo i figli, quali spesso, oltre a fare i conti con il dolore, devono combattere lunghe e costose battaglie legali per ottenere i risarcimenti e sull'eredità per arrivare ad una dichiarazione da parte del giudice dell'indegnità a succedere. Bene, come si diceva, con questa proposta l'indegnità a succedere diverrà automatica. Inoltre vengono introdotte altre forme di tutela, come il gratuito patrocinio e la sospensione del diritto alla pensione di reversibilità anche per il coniuge indagato e non solo condannato in via definitiva. Proprio su questo aveva combattuto una lunga battaglia Vanessa Mele. Aveva 6 anni quando sua madre venne assassinata dal padre. Quest'ultimo, tornato in libertà, pretese di incassarla con tutti gli arretrati, privandone di fatto Vanessa. E Vanessa era qui alla Camera poco fa per dare la sua testimonianza. Sentiamo. È senza dubbio un momento emozionantissimo, cioè sono contenta che alla fine un fatto brutto che sia capitato a me serva per aiutare tantissime altre persone che speriamo non si trovano in questa situazione, però dovendosi trovare in questa situazione speriamo che sia una cosa che aiuti anche gli altri. È il principale motivo per cui lo sto facendo. Non dovrebbe neanche esserci tutta questa campagna, cioè non dovrei neanche essere io qua oggi, perché dovrebbe essere una cosa automatica, insomma, non dovremmo lottare, dovrebbe essere una cosa sì, automatica, dovrebbe già esisterci. Sicuramente questa legge dovrà passare oggi. Ultima annotazione, la proposta è stata presentata dal deputato Roberto Capelli di Centro Democratico, ma è stata firmata da numerosi esponenti di altri partiti. Da Roma è tutto. Ti ringrazio, grazie Alessandra Scapisi per questo aggiornamento. Sul fronte dell'economia vi devo segnalare innanzitutto quello che sta succedendo in borsa in questi minuti, dove l'andamento delle banche sui mercati sta letteralmente affossando la borsa di Milano. Il Banco Popolare cede il 14,5%, la Popolare di Milano il 9,8%, UbiBanca il 4,5%, Unicredit il 3,6, Intesa San Paolo il 3,2%. Tutto questo comporta un calo sul FTSE MIB del 2,11% e dell'1,92% sul FTSE OSHER, mentre le altre borse europee perdono circa un punto percentuale, se non meno, come Francoforte che cede lo 0,85%. Torneremo su tutto questo come sempre nell'appuntamento con i colleghi di Radio Cori, Il Sole 24 Ore alle 13:30. Intanto parliamo invece di economia del turismo, perché ci sono le dichiarazioni di questa mattina del ministro Dario Franceschini, che nel corso di un convegno organizzato da Airbnb a Roma ha detto serve una revisione della tassa di soggiorno che al momento ha come riferimento le stelle degli alberghi. Dice Franceschini, sono un sistema datato e superato, ormai valgono molto di più i giudizi dei clienti sul web. E vogliamo una reazione a caldo e la chiediamo a Mario Livo, che è proprietario di Aia Mattonata Relè. Siamo in provincia di Siena e se voi cercate Italia su TripAdvisor e mettete gli alberghi in ordine, scoprirete che questo è il primo in assoluto, cioè il migliore secondo TripAdvisor. Buongiorno Livo e benvenuto. Buongiorno a voi. Allora, che le pare? Sarebbe una bella mazzata, come dire, per le persone che vengono da voi se passasse questa idea. Ma guardi, anzitutto io credo che, spero che si tratti più di una buttade che di un effettivo ragionamento di tipo politico-economico. Anzitutto perché dico, sarebbe più importante fare in modo che tutti pagassero la tassa di soggiorno, non solo quel limitato numero di strutture che sono registrate sulle varie OTA o sui vari portali. E questo sarebbe proprio un argomento da affrontare a proposito di Airbnb. Esatto, immagino lei si riferisca a quello, no? Appunto, anche esatto, Airbnb lo deve sarebbe fare. Intanto sarebbe interessante che la pagassero tutti. Poi mi fa un po' sorridere la cosa. Cioè, noi lavoriamo bene, e noi ci diamo da fare, noi siamo impegnati tutto il giorno, il risultato è che dobbiamo pagare di più. Beh, sarebbe anche giusto se parte di questa tassa di soggiorno ritornasse almeno quantomeno in servizi. Eppure sappiamo benissimo tutti che questa tassa di soggiorno va nella quasi totalità a coprire i vari buchi dei vari comuni. Dei bilanci per cui, comunali, certo. Per cui non riesco a capire perché noi, lavorando bene, portando gente, dobbiamo pagare in percentuale di più. Lo trovo una bottarda, direi. Ecco. Dice anche Franceschini, bisogna prevedere che sia una percentuale del costo della camera e non più una cifra fissa come è al momento. Cioè al momento funziona così, 2 stelle c'è un tot che varia a seconda del comune, 3 stelle c'è un tot un po' più alto, 4 stelle ancora di più. Invece una percentuale del costo della camera forse sarebbe un po' più equo. Beh, questo indubbiamente potrebbe essere più equo. C'è da dire che già gli alberghi a 1 stella hanno un certo tipo di costo per camera, gli alberghi a 2 stelle, 3 stelle hanno dei costi ben diversi. Quindi già questo in qualche misura si realizza. E poi andare a vedere, è chiaro che poi oltretutto io ho delle camere che hanno un prezzo, poi last minute hanno un altro prezzo, quindi anche questo come si fa a quantificare? È un po' più complesso. E poi c'è l'ultimo fronte che le voglio chiedere, Olivo, voi siete primi su TripAdvisor, però ci sono anche altri luoghi dove si possono, dico non fisici, su internet, dove si possono recensire gli alberghi, perché c'è per esempio anche sullo stesso Google, insomma, no? Sì, beh, soprattutto quello che in questo momento fa da riferimento di mercato è booking.com, è diventato quasi, non dico monopolista, ma quasi nell'ambito delle prenotazioni online. In effetti TripAdvisor si appoggia e indirizza in larga misura Booking. Anche lì è chiaro che ci sono dei giudizi, peraltro la cosa ovvia e naturale è che quelli che sono poi primi su TripAdvisor sono anche i primi su Booking, perché la clientela è praticamente la stessa e la qualità del servizio è uguale, per cui fa riferimento all'uno o all'altro cambierebbe poco. È proprio il concetto che secondo me è assolutamente sbagliato. È sbagliato. Grazie Mario Olivo, proprietario di Aia Mattonata Relay, come abbiamo detto, primo su TripAdvisor in Italia. Lo sport con la pallavolo maschile, il Modena Volley, fresco vincitore del suo 23esimo scudetto, lancia una raccolta di fondi online tra i propri sostenitori, perché 23esimo scudetto sì, ma la sopravvivenza è a rischio. La presidente del Modena Volley, Katia Pedrini, al microfono di Dario Ricci. Pensiamo che il sistema pallavolo così com'è in Italia non possa funzionare, non sia riconosciuto, non abbia visibilità, e abbiamo abbracciato questo progetto estremamente sfidante del crowdfunding perché crediamo che il valore di Modena sia un patrimonio da salvaguardare e deve aiutare a costruire una sostenibilità e quindi garantire una progettualità. Fa un certo effetto vedervi con lo scudetto appena cucito sulla maglietta e poi il giorno dopo lanciare questo SOS forte, per alcuni aspetti anche clamoroso. Non è casuale, insomma, e abbiamo voluto proprio approfittare di questo momento per lanciare una chiamata alle armi. Secondo noi l'epoca del mecenatismo è finito, la pallavolo a Modena più che in ogni altra parte del mondo è una responsabilità ed è un patrimonio da salvaguardare. Quanto puntate a raccogliere? Qual è l'obiettivo? Sulla nostra pagina, che è noisiamolasquadra.com, ci siamo prefissati l'ambizioso traguardo di 1 milione di euro. Adesso ci fermiamo e poi torneremo a raccontarvi qualche storia italiana, a partire da Campoformido, provincia di Udine. La picchiata non una ma più volte, è stato arrestato sabato ed è stato liberato nel giro di 2 giorni. Questa la decisione del giudice per le indagini preliminari per un uomo di 44 anni ed è la prima storia che racconteremo. E poi ci occuperemo degli ortomercati. Sta passando l'ipotesi che finisca un epoca. Al momento, come sapete, gli ortomercati aprono ancora prima dell'alba e progressivamente apriranno in orari normali, e ne parleremo con una persona che si trova negli ortomercati da decenni. E poi ci occuperemo di questa vicenda, per così dire, di una bambocciona, se così possiamo dire, una ragazza di 24 anni che non ha dato nemmeno un esame, è riuscita a ottenere da un giudice che al padre pignorassero un terzo della pensione per mantenerla, finché un quinto della pensione, finché non sarà indipendente economicamente. Traffico. Effetto giorno. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Al microfono sempre Simone Spezia. Nella prima parte della trasmissione abbiamo parlato di unioni civili, arriverà oggi il voto di fiducia, abbiamo parlato dell'attentato del quale doveva essere destinatario il procuratore capo di Napoli, è stato trovato del Tritolo in Puglia, che appunto sarebbe stato destinato a questo, abbiamo parlato dell'autobomba in Iraq con 64 vittime, abbiamo parlato, avete sentito, della vicenda del Modena Volley. Adesso ci vogliamo occupare di un caso di violenza sulle donne, un caso che arriva da Udine, nel giro d'Italia che facciamo quotidianamente, nel giro nelle città, da Campoformido per essere precisi, in provincia di Udine. Due persone si conoscono in una chat su un social network, iniziano a frequentarsi, lui la picchia una prima volta, poi comunque la storia prosegue, vanno a vivere insieme e poi arrivano altre botte, dopodiché la donna decide di denunciare. Lui viene arrestato sabato, è un uomo di 44 anni e viene rilasciato praticamente subito, è già libero. Saluto l'avvocato dell'uomo, che è Nino Orlandi, buongiorno, benvenuto avvocato. Buongiorno a lei. Questo nonostante il giudice abbia riconosciuto il significativo grado di aggressività del suo assistito, lei capisce che è una cosa che colpisce molto e colpisce tutti quanti, insomma. Guardi, si tratta di un giudice estremamente scrupoloso, certamente non è molto corrivo nel concedere i benefici del dubbio, ma nel caso ci occupa i fatti così come riferiti nella querela erano già intrinsecamente contraddittori. Cioè, parlare di aggressività forse un po' eccessivo, diciamo di reattività. Però mi scusi, i lividi ci sono, la donna è stata colpita. Guardi, non nelle forme e certamente non nei modi e non nelle circostanze riferite. Io credo che se facessimo un processo per ogni ematoma o per ogni graffio che può interessare due che convivono, avremo i tribunali bloccati. Quindi, scusi, no, allora, rimaniamo reazioni emotive, le chiamerei normalità. Normalità di reazioni, mi scusi, no, non ho capito. Reciproche. Avvocato, no, sono un po' perplesso perché quando mi parla di normalità e parliamo di botte ad una donna sono sinceramente un po' colpito personalmente. Non si tratta di botte ad una donna, si tratta di un rapporto, come si può dire, piuttosto vivace fra persone che hanno una loro psicologia particolare, intendiamoci, non è che voglio dire che questa sia la normalità, ma è un tipo di normalità diverso da quella che noi conosciamo. Sono persone problematiche, entrambe, e sa, si è persa un po' finalmente l'abitudine di prendere per oro colato ciò che è scritto in una querela quando è firmata da una donna e di non credere per principio alla versione dell'uomo, anche invece in questo caso è il contrario, ha avuto dei riscontri oggettivi la versione data dal mio assistito, non la sua parola, sa, per amor di Dio. Però, non c'è solo la sua parola. Sì, perché sono un po' perplesso, perché se i lividi ci sono, avvocato, come dire, cioè la violenza c'è stata, se evidente. Se io rappresento, no? solo i lividi di una parte e non rappresento quelli dell'altra, ho una rappresentazione falsa dalla realtà. Lei sa che c'è anche il falso per omissione o per soppressione, no? Quindi, voglio dire... La vicenda andava esaminata per quello che è, e le ripeto, si tratta di un giudice che tutto fa purché sconti. Allora guardi, facciamo così, avvocato. Io intanto la ringrazio per la sua parte. Qua qualcuno dice che intervistiamo solamente gli avvocati dei carnefici, ma figuriamoci che con tutte le battaglie che abbiamo fatto contro la violenza sulle donne in questo posto, è una frase che non voglio nemmeno sentire, e scusate se mi ci innervosisco, andremo anche a cercare il giudice per capire le motivazioni di questo giudizio. Io intanto la ringrazio l'avvocato e passiamo ad un argomento un po' più leggero, un cambio radicale, cioè un cambio storico per quello che riguarda gli ortomercati. Siete abituati, avete visto raccontare tutte le vicende, o magari lavorate nel settore degli ortomercati, queste sveglie prestissimo la mattina e tutti quanti che vanno a comprare le cose diciamo entro un orario che può essere le 4:30, le 5, le 6, per poi portarle ovviamente nei ristoranti, dai fruttivendoli, nei supermercati e via dicendo. Tutto questo sta cambiando e si passerà ad un orario più, per così dire, normale, direi quasi da ufficio. Stefano Paccagnella, abbiamo scelto una storia tra le tante, un venditore di salumi e formaggi ad un mercato ortofrutticolo di Torino. Buongiorno Paccagnella, benvenuto. Buongiorno a tutti voi. Beh, una rivoluzione, Sì, ma in realtà questa cosa era in ballo già da anni, Nel nostro mercato siamo stati in pochi che qualche anno fa già avevamo proposto una cosa di questo genere. Però cosa è successo? Che l'amministrazione non in quel periodo lì non era molto disponibile, sì. E aveva mantenuto fisso delle regole per le quali almeno il 50% più uno dei commercianti del mercato, sì. E se fossero dovessero... stati d'accordo, allora si poteva cambiare ma, l'orario. Ma Paccagnella, mi spiega una cosa, ma come mai si è presa questa decisione di cambiare? Non serve più vedersi alle 4 del mattino, come dire, per comprare la frutta, la verdura? È semplicissima la risposta. Allora, le abitudini degli italiani sono cambiati. I frequentatori di mercati rionali torinesi, che è una realtà unica in tutta quanta la città, poiché è l'unica città in tutta quanta Italia nel quale si contano settimanalmente tutti quanti i santi giorni della settimana dei mercati in sede fissa, praticamente fino alle 2 del pomeriggio. Praticamente sono cambiate le abitudini, mentre prima al mattino si veniva più spesso e frequentemente a comprare, cioè i clienti venivano a comprare nei banchi, adesso quella parte di clientela lì che lavorava è letteralmente quasi sparita. Ecco. Non c'è più, perché con tutti quanti i posti di lavoro che sono saltati, sì. Con tutti quanti i posti di lavoro che sono saltati, Praticamente sono proprio venuti a mancare quei clienti. Sì. Sono rimasti pensionati, questo non perché lo dico io, a parte che lo vedo tutti i giorni, ma è il risultato di alcune analisi che sono state sul campo fatte dal Politecnico di Torino. Sì. E quindi i pensionati vengono più tardi. Vengono più tardi, non arrivano alle 8 di mattina i pensionati, sì, per fare solo la spesa. Noi ambulanti abbiamo, ma che è una cosa che si ricollega alle tante abitudini di noi italiani, siamo difficili ad adeguarci ai nuovi bisogni. E quindi la maggior parte della gente è un po' demotivata, soprattutto demotivata dal fatto che c'è poco lavoro, non ha voglia, cioè non riesce a decidere, a organizzare bene l'orario di lavoro al pomeriggio, perché uno logicamente non è che può venire al mattino, al pomeriggio. È certo. Sparirebbe la vita privata, sparirebbe. Succederebbe quello che succede nei centri commerciali. Sì. Cioè praticamente con questa grossa crisi che c'è a livello delle famiglie, questo qui è un aspetto di cui purtroppo se ne parla poco, ma noi abbiamo molti clienti che lavorano nei centri commerciali, sì, però guarda caso vengono a comprare da noi. Sì. Ci sono ma sono moltissimi, sì, perché conoscono comunque le realtà che ci sono, la qualità del cibo che viene venduto. Sì. Ma non è solo quello. Quindi a che ora inizierete praticamente? Ma guardate che non è stato ancora deciso niente. Sì, di tutto però diciamo, quando verrà deciso, a che ora inizierete? C'è chi parla di spostare solamente di un paio d'ore. Sì. Ma guardate che non è una cosa fissa, perché comunque o viene presa in mano la situazione a livello di assessorato e viene definita, sì, un orario ben preciso sotto il quale bisogna sottostare, appunto. Sì. Oppure bisogna prendere delle decisioni a livello di ogni mercato, ma ripeto, è molto difficile mettere d'accordo tutti quanti, per esempio per fare, invece che al mattino, fare l'orario pomeridiano, sì, diciamo dalle 4, alle 5, fino alla sera, alle 8, benissimo, che è l'orario di punta dei guardacaso dei supermercati. Va bene, vedremo come andrà a finire a Torino. Intanto la cosa viene già sperimentata nel mercato ortofrutticolo di Roma, e quindi questo già avviene, e se ci capiterà nei prossimi giorni ci torneremo. Intanto io ringrazio Stefano Paccagnella per essere stato con noi nella seconda parte della trasmissione. Tra un attimo ci occuperemo di questa vicenda che già vi accennavamo nei titoli, una vicenda che rientra nell'ambito, consentiteci questa parola, che insomma ormai è diventata quasi un luogo comune, del discorso bamboccioni. Una ragazza di 24 anni, iscritta all'università, non dà nemmeno un esame e però riesce ad ottenere da un giudice che requisiscano un quinto dello stipendio del padre per farsi mantenere. A tra poco. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. I nostri titoli: sulle unioni civili si apre tra molte polemiche la discussione sulla fiducia al governo, si vota questo pomeriggio. Trovato mezzo chilo di tritolo in Puglia, secondo i magistrati era destinato al procuratore capo di Napoli. Un'autobomba in Iraq, a Baghdad, sarebbero almeno 64 i morti nel distretto sciita di Sadr City. La rivendicazione arriva dall'ISIS. Alla Camera intanto arriva la proposta di legge per escludere dall'asse ereditario gli uomini condannati per l'omicidio della moglie. La borsa. Pioneer Investments, leader globale nella creazione di soluzioni di investimento. Vi presenta... Effetto giorno. E ci spostiamo a Giussano, provincia di Monza e Brianza, nella scuola media Don Rinaldo Beretta. Che cosa succede? Che in terza media due ragazzini, un ragazzo e una ragazza di 15 anni, si scambiano alcune dosi di marijuana mentre sono in classe. I compagni se ne accorgono, avvertono il professore che in quel momento è voltato di spalle, vengono presi i provvedimenti necessari, si riunisce il consiglio di istituto, i due ragazzi vengono espulsi e bocciati, di fatto non possono sostenere l'esame di terza media. E il sindaco ha detto in sostanza: io non ci sto, secondo me non è la soluzione giusta. Lo abbiamo raggiunto, Matteo Riva, sindaco di Giussano, e ci siamo fatti spiegare perché. Va chiarito che la presa di posizione nasce dal fatto che il Comune di Giussano è ente affidatario dei due giovani in questione. Quindi personalmente, come rappresentante dell'ente, mi sono sentito in dovere di dare la mia opinione sulla questione. La mia posizione è nata semplicemente da una lettera che ho voluto inviare al preside e al consiglio d'istituto che era chiamato a decidere su questa questione, in cui ho dato la mia idea, e cioè che secondo me espellere due giovani che sono in prossimità dell'esame di terza media è una scelta che innanzitutto rischia di pregiudicare la chiusura per loro di questo titolo di studio, perché chiaramente quando si arriva a 16 anni si può abbandonare la scuola liberamente, non c'è più la necessità. E loro ne hanno 15. Quindi il rischio potrebbe esserci, no? Quindi questa è una motivazione, ma soprattutto perché ritengo che poi la scelta dell'espulsione è una scelta esclusiva, nel senso di esclusione. È vero anche, sindaco, dall'altra parte, che qualcuno dirà, insomma, questi comprano e vendono erba a scuola, anzi dentro la classe, è come dire, ci vorrà una punizione esemplare, no? Assolutamente, io sono d'accordissimo su questo, infatti ho sottolineato sempre che la punizione andava data e doveva essere una punizione assolutamente incisiva, però chiaramente la preoccupazione anche che l'espulsione porti all'abbandono della scuola, che quindi un comportamento probabilmente occasionale si trasformi in uno stile di vita, mi consenta che possa venirmi. Però io vorrei chiarire anche una cosa, perché sì, secondo me è importante questo. Qualche giornale purtroppo ha passato la notizia come se io volessi mettermi contro la scuola che sta all'interno del mio territorio. Assolutamente no, perché la scuola con questi ragazzi ha fatto un percorso molto positivo, perché comunque ha portato, ha tenuto all'interno della classe questi ragazzi nonostante fossero emersi magari anche delle problematiche durante gli anni scolastici. Io ritengo che la soluzione finale però non sia stata quella probabilmente proporzionata. Mi sembra di aver capito, sindaco, che lei eventualmente è disposto anche a pagare a questi ragazzi l'esame per fare l'esame di terza media. Allora, noi stiamo verificando la possibilità per questi ragazzi di fare gli esami in un altro istituto. Non siamo certi che la cosa sarà possibile, però ecco, ci proviamo sicuramente. Così dunque Matteo Riva, sindaco di Giussano. Altra vicenda che arriva dal territorio, in questo caso dal Trentino, dove una ragazza di 24 anni, iscritta all'università senza aver dato alcun esame, porta in tribunale il padre, tra l'altro separato, per chiedere dei soldi per il mantenimento. Li ottiene, un quinto della pensione. Abbiamo l'avvocato dell'uomo, che è l'avvocato Claudio Tasin, il suo assistito è un ex autista di Trentino Trasporti, quindi potrete immaginare che la pensione non è questa cosa fenomenale. Tasin, buongiorno avvocato, benvenuto. Buongiorno a voi, ben sentito. Allora, come sono andate le cose? Ce le spiega? Rappresentiamo un fatto quotidiano, purtroppo, ai noi. Così è quando il figlio, ovviamente, non di sua iniziativa, ovviamente, c'è sempre dietro un regista, il famoso Gobbo, suggerisce di pretendere il riconoscimento al mantenimento, così affermando una incapacità di produrre reddito, quindi una mancata autosufficienza sotto il profilo economico. Il regista, immagino che lei intenda l'ex moglie del suo assistito. Ebbene, vedo che è perspicace. Insomma, certo. non era molto difficile da capire. Uno dei due genitori. Questo le do anche la motivazione, che è un po' più, come dire, strutturata, nel senso che col mantenimento, o meglio con la incapacità di produrre reddito, c'è l'assegnazione della casa coniugale, che solitamente è affidata al genitore, assegnata al genitore affidatario nei confronti dei figli minori. La signora è affidataria. Certo. Di fatto il suo assistito si trova con 150 euro in meno, un quinto appunto della sua pensione, che, come avrete capito, dunque dai 150 euro che vi sto riferendo, già di suo non era questo granché, insomma. Convengo, ma dipende dal reddito, dalla capacità, ma poi c'è un profilo anche, come dire, di vita, di sensibilità, c'è una serie di fattori, di conflittualità. che voglio dire, valorizzano questi aspetti. Senta, avvocato, ma io vorrei capire, dato che non è la prima sentenza di questo tipo in realtà, il giudice che cosa dice? Che cosa c'è scritto? Cioè, innanzitutto, se avete già la sentenza e che cosa c'è scritto? Perché appunto il tema è questo: una ragazza di 24 anni, iscritta all'università, prima ha lavoricchiato, non ha lavoricchiato, non importa, sono un po' una vita professionale, per così dire, un po' confusa. Dopodiché si iscrive all'università, non fa nemmeno un esame, eppure il giudice dice: guarda, la devi mantenere lo stesso. Sono due profili, uno in questo momento di debolezza per il, chiamiamolo padre, genitore padre, che è quello di esecuzione di un provvedimento ormai definitivo, che era la sentenza, cioè ormai consolidato, diciamo, di separazione, e quindi impone. L'altro in attesa, cioè la valutazione del, e quindi impone al giudice di esecuzione di eseguire, mero esecuzione, e quindi non paghi, ti detraggo il quinto del tuo reddito mensile. L'altra cosa invece è il merito, che stiamo trattando in sede di divorzio, appunto, la effettiva incapacità di dedicarsi al lavoro, di produrre reddito, di essere autosufficienti nei confronti della figlia. È una doppia valutazione. Certo, capisco. E quindi, insomma, la sostanza è questa: 24 anni, il padre la dovrà mantenere finché non sarà autonoma economicamente, chissà quando. Solo, ma certificata questa autonomia da parte del tribunale. Questo è il problema. Quindi il tribunale non solo deve essere autonomo economicamente, ma il tribunale deve certificare questa autonomia economica. E quindi certo, chissà quando mai. Diciamo che non tutti i tribunali sono uguali, la realtà territoriale e giudiziaria dell'Italia è diversa e variegata. Confidiamo che nel nord le cose funzionino maggiormente. La ringrazio, grazie all'avvocato Claudio Tasin, che ci ha raccontato, aiutato a raccontare questa storia che abbiamo pescato su un quotidiano locale, il Corriere delle Alpi, nella sua edizione trentina. Ci fermiamo, c'è il traffico. Mario Platero, ci risentiamo alla fine per i saluti.